perché non vuol, non, mangiare bene non vuol dire mangiare male. Quindi aglio senza, senza l'anima praticamente. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Se rinasco, rinasco cipolla, perché mi sembra che sia perfetta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove? Chissà in quanti l'hanno cantata in questi giorni, perché il maltempo sta davvero mettendo in difficoltà l'Italia e gli italiani, sta incupendo l'umore di tutti. Io sono un po' meteopatica, tu? No. No, io invece non ti vedo, io sono il tuo sole. Grazie, ottimo. Però sta mandando in malora la stagione turistica, perché questo è vero, e sta facendo litigare anche gli operatori turistici con i meteorologi, e ne abbiamo parlato anche, ti ricordi? Con il nostro capitano. Con il nostro capitano, per non parlare di come questo maltempo sta colpendo duramente le campagne, dalle vigne devastate dalle grandinate ai campi di pomodori, ortaggi di stagione allagati. I danni in diversi casi, sentite qua, interessano fino al 60% dei raccolti, e il monitoraggio da parte dell'associazione del settore agricolo è costante, ma il bilancio appare davvero serio. Molti i disagi anche nel taglio del fieno e del frumento. Allora Deborah, oggi partiamo proprio dal maltempo che sta mettendo in ginocchio i prodotti dell'agricoltura. Ci sono problemi un po' ovunque lungo lo stivale, ma noi sappiamo bene che i prodotti dell'agricoltura, in particolare la frutta e la verdura, sono indispensabili per il nostro benessere e per la nostra salute. Allora oggi cercheremo, con l'aiuto dei nostri esperti, di fare di necessità virtù, e quindi cercheremo di dare consigli per il nostro benessere, con un occhio naturalmente al portafoglio, per scegliere la frutta e la verdura e per non farci mancare le famose 5 porzioni che ci aiutano a vivere bene. Allora, tornando ai problemi provocati dal maltempo in questi giorni, naturalmente già si guarda le prossime settimane, quando partirà la vendemmia, che appare a questo punto appena le condizioni meteo, anche se già si devono fare i conti con un aumento dei costi di produzione in termini generali. Per denunciare tutto questo, e non solo, ieri sono arrivati da tutta Italia, si sono dati appuntamento a Piazza Montecitorio a Roma e sono stati lì per tutta la mattinata fino al primo pomeriggio centinaia di produttori di frutta e verdura estiva, imprenditori e lavoratori, per una manifestazione organizzata da Agri Insieme, il coordinamento di CIA, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. E hanno voluto così, in questo modo, richiamare l'attenzione sullo stato di crisi provocata da questa ondata eccezionale di maltempo estivo, ma anche per esprimere sostegno all'azione del ministro dell'Agricoltura Martina, che sta intervenendo sulla Commissione Agricoltura dell'Unione Europea affinché attivi le misure d'emergenza previste per fronteggiare questa grave crisi dell'ortofrutta, che tra l'altro era già molto forte, Deborah, sì. E sulla quale il carico da 90, il maltempo. L'asse di briscola, come lo chiamo io, insomma, ci sono molti modi per definire questo peggioramento della situazione. Così noi abbiamo voluto dare voce ai manifestanti, agli operatori del comparto agricolo, per cercare di capire che conseguenze stanno provocando queste inedite condizioni atmosferiche, quali colture ne stanno pagando il prezzo più alto, e a proposito di prezzi, come tutto questo si sta trasferendo sui prezzi dell'ortofrutta e quindi sulle tavole dei consumatori. Anzi, sai che cosa ti dico? Invito subito i nostri ascoltatori a chiamarci per raccontare se si sono accorti di questa situazione. 800 24 00 24, subito mano alla cornetta. E a proposito di numeri, oltre al numero verde che è sempre attivo e anche al numero per inviare i messaggi, ne stanno già arrivando al 349 238 6666, io vi do un altro numero, vi do il 5. 5 sono le porzioni di frutta e verdura al giorno che, secondo le ricerche, in fondo tolgono il medico di torno e allungano la vita. Così dice lo studio fatto dai ricercatori dell'Harvard School. Gli studi hanno coinvolto, pensate, in totale oltre 800.000 persone, e questa nuova revisione sistematica pubblicata sul prestigiosissimo British Medical Journal smentisce un precedente studio in cui si affermava che per ottenere i benefici da frutta e verdura bisognasse assumerne almeno 7 o più porzioni al giorno, una quantità più... Allora, invece adesso potremmo dire la rivincita dei 5. Bastano 5 porzioni di frutta e verdura, ma voi riuscite a portarle in tavola? Come le distribuite nel corso della giornata? E poi mangiate più frutta o mangiate più verdura? Portate in tavola sempre la stessa frutta, sempre la stessa verdura? Perché noi vi raccomandiamo sempre di utilizzare i prodotti di stagione, ma la stagione è ricca e quindi diversificare siete... anche la frutta oltre che gli investimenti. Non solo pomodori e zucchine, ma anche melanzane o peperoni e fagiolini. Brava, vedi che i fagioli sono legumi, sono molto importanti. Bene. E poi la frutta solo albicocche, no? Anche pesche rentarine, pesche noci, lamponi. Hai toccato un tasto dolente del quale parleremo. Apposta. Brava. 800 24 00 24, diteci se riuscite anche a far mangiare la frutta e la verdura ai vostri bambini e se soprattutto voi date il buon esempio. L'estate sta finendo. È un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. Sta finendo, per modo di dire, perché mi pare che quest'anno non è mai iniziata. Esatto, è più corretto proprio dire che non è mai iniziata, tanto che la stagione turistica è in grande difficoltà, ne abbiamo parlato spesso. Noi oggi però vogliamo capire che cosa sta succedendo ai prezzi di frutta e verdura a causa di questa incredibile ed inesauribile ondata di maltempo, con temporali e grandine che da giorni contraddistinguono le nostre giornate. Sono proprio enormi i danni al comparto agricolo. Allora salutiamo gli ospiti con i quali ci intratterremo in questa prima mezz'ora di programma. Raffaele Drei, presidente di Agrintesa, è una cooperativa faentina che rappresenta oltre 4.000 aziende agricole e 10.000 ettari di frutteti. Buongiorno Drei, benvenuto. Buongiorno. A tutti gli ascoltatori. Grazie anche ad Agostino Macri, esperto di sicurezza alimentare di Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno dottor Macri. Buongiorno a voi tutti, grazie. Buongiorno. Drei, io voglio cominciare con lei perché lei ieri era a Montecitorio, a Roma, cominciando proprio con la manifestazione che ha visto i partecipanti organizzare anche una distribuzione di frutta fresca ai cittadini. Hanno proprio fatto bene. Esatto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle grandi difficoltà che sta vivendo un comparto strategico del nostro agroalimentare che dà lavoro a più di 100.000 persone. Drei, cosa sta succedendo? Quali sono le informazioni che tutti i consumatori devono sapere? Cosa è successo ieri a Roma? Ma vede, quello che i consumatori e più in generale l'opinione pubblica italiana temo non sappia è che il settore ortofrutticolo italiano, che è come comparto uno dei primi al mondo, perché siamo secondi come produzione solo alla grandissima Cina, ma in Europa l'Italia è il primo paese produttore di ortofrutta, ma questo comparto sta lentamente scivolando lungo una china che la porta ad una grandissima e strutturale crisi. Purtroppo alle situazioni di difficoltà, di anni di competizione globale estrema, l'ortofrutta italiana si trova in questo contesto a vedersi sommare cause strutturali, situazioni strutturali negative, anche un contesto contingente pesantemente negativo legato all'andamento stagionale, che è generato in parte da un andamento invernale molto anomalo. Al nord praticamente non abbiamo avuto inverno, non abbiamo avuto delle temperature basse, classiche del periodo invernale nelle regioni settentrionali. Ce lo raccontavano i suoi colleghi quest'inverno con le verze, ti ricordi? Non c'era stato gelo sufficiente per poterne portare sulle tavole dei consumatori in misura sufficiente. Drei, mi scusi, l'ho interrotta. È assolutamente così, e successivamente abbiamo avuto un'estate che ancora si sta facendo desiderare. E quindi è successo che i calendari di maturazione, naturalmente programmati per avere epoche di raccolta differenziate da sud a nord, sono stati totalmente sovrapposti. Questo è successo in Italia, per farle un esempio, nel nord Italia, in Emilia-Romagna, ma potremmo dire anche in Veneto e quasi anche in Piemonte, i calendari di raccolta sono stati praticamente sovrapposti a quelli di Calabria o di Campania. nel nostro paese competitor, che è la Spagna in primis, è successa esattamente la stessa cosa. Il sud e il nord della Spagna hanno prodotto in maniera esattamente contemporanea e contemporanea le nostre produzioni. L'effetto di questo è che abbiamo portato tutto, si è riversato sul mercato, certo. Anziché con una diluizione temporale di 2 mesi abbiamo portato il prodotto con una concentrazione temporale assolutamente insostenibile dai consumi. Allora, quindi ecco, una crisi preesistente sulla quale c'è stato il colpo di grazia a causa dell'andamento climatico anomalo, la contemporanea maturazione nei principali paesi produttori delle stesse tipologie di prodotti e poi il calo costante, anche questo lo dobbiamo ricordare, Drei, dei consumi domestici, perché leggo che c'è stata una riduzione dei consumi di frutta e verdura di più di 20% negli ultimi 10 anni, e questo ha comportato complessivamente un crollo dei prezzi pagati agli agricoltori, che non riescono più nemmeno a coprire i costi di produzione. Ci fa qualche esempio per capire e farlo capire ai nostri ascoltatori a quanto ammonta questa riduzione dei prezzi? Quali le colture che stanno avendo i danni più seri da questa contingenza, appunto, di situazioni, Drei? Guardi, nella media degli ultimi 10 anni sicuramente il comparto pesche nettarine è quello che ha vissuto i momenti peggiori, o meglio che ha visto un numero estremamente limitato di annate in cui la redditività ha raggiunto una soglia di sufficienza. Ciò non toglie che un po' tutte le produzioni ortofrutticole italiane hanno avuto negli ultimi 10 anni momenti particolarmente difficili, e questo legato ad una concorrenza purtroppo ad armi impari con paesi che sono emergenti e che vedono aumentare costantemente le proprie produzioni. Costi di produzione, guardi, oggi il costo di produzione di un chilo di pesche nettarine, io penso, volendo dare un numero molto approssimativo, perché ovviamente ci sono diversificazioni legate all'epoca di raccolta, ai calibri, alle diverse varietà, però penso che i 40 centesimi siano una soglia minima al di sotto del quale anche l'azienda particolarmente non sopravvive. Oggi i produttori stanno realizzando circa 15 centesimi, parlando di un prodotto in natura per come esce dall'azienda agricola. Tra l'altro, Drei, guardi, sulle pesche nettarine ci ritorniamo dopo le 11.30, perché dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori anche del fatto che state pensando di chiedere l'autorizzazione alla distruzione di prodotto in Italia, quindi questa è il senso dell'emergenza chiesta a Bruxelles, poi ne parleremo. Leggevo che i prezzi all'ingrosso di queste pesche sono passati da 78 centesimi al chilo di inizio giugno a 53 centesimi la prima settimana di luglio, e penso che si stia scendendo ancora, no, Drei, se non ho capito male dal oggi suo ragionamento. Oggi esistono sul mercato offerte che vanno dai 42-45 centesimi fino ai 50, certo, per le aziende un po' più strutturate. Benissimo. Allora, ci sono degli ascoltatori pronti ad intervenire, vero Nicoletta? Assolutamente sì, abbiamo Paolo che ci chiama da Milano, 800240024, ci state già scrivendo e raccontando un po' la vostra difficoltà a portare la frutta e verdura sulle vostre tavole, e chiedete dei consigli, ve li daremo naturalmente tra poco, anche per i vostri bambini. Sì, prima di sentire l'ascoltatore volevo però interpellare il nostro rappresentante delle associazioni dei consumatori, Agostino Macri, esperto di sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori, perché vorrei sapere cosa dicono e cosa pensano le associazioni dei consumatori di tutta questa situazione, perché per una volta tanto, diciamo, ecco, notiamo anche un atteggiamento inedito da parte vostra. Per una volta tanto i consumatori non alzano la voce su possibili speculazioni che possono colpire i prodotti dell'ortofrutta, come capita spesso quando si verificano circostanze meteorologiche straordinarie, tipicamente dopo grandi nevicate o magari siccità particolarmente forti. In questo caso i consumatori sono accanto agli agricoltori, Macri, giusto? Qual è il suo pensiero? Sicuramente c'è una grande preoccupazione da parte dei consumatori, ovviamente al prezzo, ma i prezzi effettivamente, come è stato accennato, non è che siano così alti da scoraggiare i consumatori. Probabilmente c'è proprio un problema generale di disponibilità finanziaria a fare la spesa. Sicuramente, come Unione Nazionale Consumatori, noi stimoliamo i consumatori stessi a consumare più frutta e più verdura, come è stato detto, quelle delle 5 porzioni al giorno è un elemento estremamente importante che c'è da fare. Siamo piuttosto perplessi su questo sistema, che è stato ben rappresentato. Il nostro paese produce ma non riesce a vendere, addirittura deve buttare via delle cose, esatto, che produce. Questa è una cosa veramente incredibile. Sicuramente c'è qualcosa che non funziona, probabilmente c'è la concorrenza straniera che ci dà la frutta tutto l'anno. Noi, se vogliamo le mele o se vogliamo le ciliegie a Natale, le troviamo. Quindi questa qui è qualcosa che ci sta veramente penalizzando. I costi di produzione all'estero sembrano essere molto bassi. Io ieri, passando in un negozio, ho visto le banane a 1,40 € al chilo. Ora, se penso che le banane arrivano dal Centro America, si fanno il giro del mondo e poi costano quanto le pesche, o forse addirittura poco più delle pesche prodotte in Italia, mi sembra che veramente ci siano cose che non funzionano. Degli squilibri evidenti, certo. Eppure molti ascoltatori al 349-238-6666 lamentano che i prezzi sono alti. Al supermercato sono 2,89 i prezzi, no, magari... al supermercato sono molto più alti rispetto ai costi dell'ingrosso. Alcuni ascoltatori ci dicono: ci suggerite il consumo di frutta e verdura? È sicuramente salutare, ma costa parecchio, è un'abitudine costosa. Chiediamo, ci allora, scrive Marisa, che cosa pensano e quanto pensano di dover spendere per un chilo di pesche nettarine o un chilo appunto di un'altra verdura o di un altro frutto appunto di stagione, per capire poi se queste considerazioni coincidono anche con chi produce e se su questi prezzi che sono nella testa dei consumatori appunto gli agricoltori ci stanno dentro anche con la produzione. Sentiamo però l'ascoltatore che era Paolo, pronto. Buongiorno, ci chiama da Milano, benvenuto. Buongiorno alle conduttrici, buongiorno agli ospiti. Grazie. Vi parlo da Milano, sono un viaggiatore, quindi 60.000 km all'anno in macchina lungo il nostro stivale fantastico. Sì. Vedo prezzi e prodotti completamente differenti dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Non vedo differenze qualitative e mi spiego. Noi siamo i migliori in assoluto produttori di qualità. Non so di quantità, gli esperti ne sanno più di me, ma di qualità ne sono certo. Ci siamo imposti in famiglia di non acquistare mai un prodotto che non sia italiano, non comunitario, italiano. Siamo convinti che siamo il numero uno e dobbiamo consumare prodotto italiano. Il problema è quello che dicevate poc'anzi. In Sicilia compro le pesche, per modo di dire, a 90 centesimi, a Milano io per forza di cose la compro a 1,60. È impossibile pensare di consumare tanto se abbiamo queste differenze abnormi. E un'ultima cosa, poi vi lascio, vi ascolto per radio. Grazie. Perché dobbiamo per forza di cose andare a subire l'acquisto obbligato di prodotto spagnolo, argentino o quel che volete voi e non italiano, quando noi produciamo credo l'80%. Grazie Paolo, siamo i primi in qualità. Esatto, no, Paolo ha ragione. E ha toccato un altro tasto dolente che ha provocato nelle scorse settimane anche un'altra grande presa di posizione da parte dei produttori di riso italiani, che devono combattere invece per tutta una serie di autorizzazioni normative che naturalmente hanno spinto la globalizzazione, devono combattere il boom di arrivi di riso dalla Cambogia e dalla Birmania, e noi abbiamo delle signore di Zaie, tu Nicoletta lo sai appunto, per cui Drey e Macri, un commento sull'osservazione del nostro ascoltatore. Drey, comincio con lei, con appunto Agrintesa. Ma guardi, indubbiamente l'Italia ha, oltre che un'ottima qualità da un punto di vista organolettico, ha sicuramente la miglior qualità da un punto di vista salutistico e di rispetto ambientale, perché il disciplinare di produzione italiana, al quale tutti i produttori, in particolare di ortofrutta, ma parlo di questi perché mi occupo di questi, oggi sono sottoposti a dei disciplinari produttivi che non trovano confronti in altre aree produttive del mondo, e questo genera in me anche dei costi da un punto di vista ovviamente dell'impresa agricola che si sottopone a questi disciplinari di rispetto ambientale e salutistico. L'altro aspetto che colgo molto positivamente nell'intervento del radioascoltatore è il tema dei prezzi. Io credo che oggi il consumatore sia molto disorientato nel capire qual è il giusto prezzo del prodotto, esatto, ortofrutticolo che acquista. Perché io proprio non ne ho idea, Drey, ci fa qualche esempio per capire come possiamo orientarci come consumatori appunto davanti ad un chilo di pesche nettarine, così come qualunque altro tipo di frutto o di verdura di stagione? Guardi, purtroppo oggi sul mercato il consumatore trova delle promozioni sotto costo che non hanno oggettivamente nessun tipo di riferimento con il valore del prodotto, perché so bene di catene che hanno fatto promozioni al di sotto dei 50 centesimi chilogrammo, che sono promozioni ad avviso dei produttori assolutamente intollerabili, ingiustificabili, e che credo non aiutino neanche alla fine il consumatore a consumare di più, perché sono troppo al di fuori di quello che è un corretto valore del prodotto. Colpa dei contratti capestro che siete costretti a firmare, tra virgolette, con la grande distribuzione. Credo che sia la reazione ad una situazione di crisi che anche le catene distributive stanno vivendo, e che quindi cercano anche attraverso questi strumenti di attrazione del consumatore all'interno dei propri punti vendita, usano anche i nostri prodotti per riuscire a farsi una guerra fino all'ultimo cliente. Chiarissimo. E questo è un problema. Certo, Drei, adesso andiamo agli altri. Intanto io vorrei chiedere al dottor Macri un aiuto, perché lei deve lasciarci tra qualche minuto, ma io vorrei da lei un suggerimento. Come consumatori, che spesso contestiamo se andando al mercato troviamo dei prezzi dell'ortofrutta un po' più alti di quelli del supermercato, e ricordiamo che l'abbiamo detto, che spesso la grande distribuzione fa dei contratti capestro, come diceva Deborah, con il mondo agricola, e magari lo strozza ulteriormente. Ma Macri, come facciamo a fare una spesa di frutta e verdura consapevole, di qualità, senza spendere uno sproposito? Guardi, la prima cosa è cercare di andare nei posti, nei diversi, possibilmente guardare diversi punti vendita. Mi rendo conto che è difficile comparare i prezzi. Poi quello che c'è da fare è andare un po' a guardare anche l'origine di questi prodotti. A me è capitato alle volte di trovare sullo stesso scaffale del supermercato delle pesche prodotte in Italia e a fianco delle pesche argentine nel mese di agosto. Questo mi è capitato. Il prezzo è comparabile. Ora, conviene comprare la frutta italiana o la frutta argentina? Sicuramente io penso poi proprio ha toccato un paese oggi, esatto, che già sui forse ho fatto un esempio sbagliato, ma lo posso fare con i limoni che arrivano dal Centro America, con i siciliani e così via. E il riso della Cambogia, quindi compriamo italiano. Ricordiamo, compriamo italiano, anche se alle volte per certi prodotti italiani non ne abbiamo a sufficienza. Non si parla di frutta e di verdura, ma parliamo di frumento o di grano, che noi siamo costretti ad importarne una quantità enorme se vogliamo fare i nostri prodotti alimentari. Infatti, quindi abbiamo una situazione abbastanza scombinata. Sì, squilibratissima. Da una parte va a buttare le pesche, dall'altra parte prendere prodotti dall'estero. Non riusciamo, certo, non riusciamo a fare. E quindi magari farsi un orticello, ma Cristo, che a lei piace questo argomento. L'orticello è una buona cosa. Io ho l'orticello, ve lo dicevo ieri parlando prima della trasmissione, che sicuramente però... la provocazione finale, ci sono ormai gli orti anche sui balconi con la moda lanciata da Michelle Obama, ma non è che fai un grande raccolto, almeno nel mio balconcino Manco una pianta. Abbiamo qualche ascoltatore prima di salutare. Sì, volevo solamente leggere a Macri un ascoltatore che ci scrive: abita in provincia di Piacenza, in un paese letteralmente circondato da campi di pomodoro di tutti i tipi, perché al supermercato del paese trovo pomodori della Puglia. Ecco, Macri suggeriva prodotti italiani, ma l'ascoltatore invita a comprare anche prodotti a chilometro zero. Macri. Ah, senta, guardi, su questo, sui pomodori, ricordiamoci che in questo periodo probabilmente tra un po' troveremo anche i pomodori olandesi, ecco, quindi su questo, perché hanno delle forme di carattere che sono adatti per farci il pomodoro al riso. Cioè abbiamo una situazione per cui alcune aziende, alcuni paesi producono dei prodotti che fanno comodo particolarmente al consumatore. Poi c'è un'altra cosa che forse non è stata semplicemente accennato, ma sono le catene di distribuzione, perché il modo con cui la frutta e la verdura arrivano al consumatore sono diversi, o attraverso i mercati generali o attraverso la grande distribuzione, che acquista direttamente dai produttori facendo quei contratti capestro a cui voi accennavate. Poi altra cosa sulla produzione: io penso che sia necessario dare un forte impulso alle nostre produzioni agricole nazionali, anche perché non sono rari i casi di alcuni agricoltori italiani che hanno delocalizzato le loro produzioni magari in Egitto. Quindi, cioè, abbiamo una situazione veramente confusa. A me sembra che non ci sia una strategia dietro a questo per dare un sostegno effettivo. Benissimo. Alle nostre Grazie produzioni. Macri, questo è un bel richiamo al ministro Martina, che peraltro anche ieri è stato ospite dei nostri programmi. Non si è parlato di questo, però noi lo sollecitiamo lo stesso. Allora, buona giornata e buon orto al nostro Macri. Cosa sta raccogliendo adesso nel suo orto? Sto raccogliendo melanzane, peperoni, pomodori, e un po' di verdura, e poi allora, anche dei lamponi. Ah, pure, appunto. Eccolo qua. Cuore e denari. Non solo di pomodoro e di pappa al pomodoro parleremo nella seconda parte della trasmissione, ma di frutta e verdura in generale. Lo sappiamo, sono risorse importanti per la nostra salute, quindi con i nostri esperti cercheremo di capire come portare in tavola frutta e verdura in maniera salutare, ma allo stesso tempo alla cuore denari, quindi risparmiosa. Ma c'è chi di frutta e soprattutto di verdura spesso non ne vuole proprio sapere, lo sappiamo, sono i bambini, e per non farla diventare un'impresa impossibile con i nostri esperti cercheremo di darvi tutti i consigli del caso. Tra l'altro, a questo proposito, Deborah, vogliamo segnalare Fruity Life, che è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea, dal Ministero delle Politiche Agricole, coordinato dalla cooperativa Alimos, Alimenta la Salute, che propone ricette molto semplici, gustose, pratiche, che invogliano anche un po' i più piccoli ad avvicinarsi al consumo quotidiano. Ottimo. Di frutta e verdura. Ci stanno già arrivando anche dei messaggi dei nostri ascoltatori che suggeriscono trucchetti per far mangiare frutta e verdura ai loro bambini. Intanto raccontateci come ve la cavate voi con le vostre 5 porzioni di frutta e verdura, se date il buon esempio ai vostri bambini, se naturalmente avete bambini, e come riuscite a fargli fare pace con frutta e verdura. 800 24 00 24, parleremo, vi rassicuro, anche delle famose porzioni. Quanto pesa una porzione di insalata, vale una porzione di melanzane? Tutti i dubbi e le vostre domande al nostro numero verde, per l'appunto. Nel frattempo continuiamo ad affrontare la questione delle difficoltà in cui versa il settore frutta e verdura in Italia a causa della crisi in generale, non solo perché non ne mangiano tanto volentieri i bambini, delle importazioni non lealissime che fanno crollare i prezzi, e poi, siccome piove sempre sul bagnato, naturalmente per utilizzare un concetto che c'è familiare in questi giorni, a metterci il carico di brividi anche l'eccezionale ondata di maltempo, appunto, di queste settimane. Pensate che, oltre a tutte le cose che abbiamo raccontato in apertura, le temperature in picchiata in molte zone hanno ghiacciato le coltivazioni di carote. In alcune zone, come nel Novarese, le ripetute, perché non ce n'è stata solo una, ma ripetute trombe d'aria, hanno provocato gravi danni alle strutture aziendali, allagando stalle e ricoveri di attrezzature agricole. E sai che ho letto Coldiretti, dice che persino le api non volano perché poveri nella pioggia e non riescono quindi a raggiungere il nettare dei fiori, che però, lo sappiamo, è indispensabile per la produzione del miele Made in Italy, il cui raccolto rischia anche in questo caso di essere ridimensionato. Esatto. Tra l'altro, tu sei ghiotta di miele. E non posso neanche mangiarne più tanto ultimamente, perché tu sai che con i cibi fermentati mi è venuto fuori qualche problema, per cui sto mangio io, guarda, mangio io la tua parte. Quelle due volte al mese che posso mangiarlo me lo gusto molto volentieri. Però c'è anche un piccolo lato positivo di questa medaglia, perché dove le perturbazioni non sono state, come dire, violentissime, a beneficiare della pioggia sono state le coltivazioni di mais e riso, che, come è noto, hanno bisogno di molta acqua, però non è che possiamo farci abbuffate di riso e mais. Allora, 800 24 00 24, raccontateci se avete notato un trasferimento di questa situazione sui prezzi della frutta e della verdura di stagione che consumate in questo periodo. Ieri di tutto questo si è discusso in questa grande manifestazione a Roma, e c'era anche il nostro ospite di oggi, Raffaele Drei, presidente di Agrintesa. Peraltro, Drei, la vostra struttura, la vostra azienda, che rappresenta oltre 4.000 aziende agricole e 10.000 ettari di frutteti, che danni ha subito da questa situazione meteorologica? I danni sono pesantissimi, perché le produzioni estive vengono raccolte in condizioni di serbevolezza assolutamente non ottimali, perché la pioggia ha determinato dei pesanti marciumi sulle piante, quindi molto prodotto siamo costretti a buttarlo a terra. Dopodiché, da un punto di vista commerciale, il danno diventa duplice, perché i prezzi di mercato, come sappiamo, come già detto, sono pesantemente crollati, molto al di sotto dei costi di produzione. Abbiamo degli ascoltatori, Nicoletta? Sì, abbiamo un ascoltatore che ci chiama da Milano, dalla provincia di Milano, è Paolo, è un tecnico. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io chiamo dalla provincia di Milano Lodi e mi occupo di, sono un agronomo nutrizionista, mi occupo di vacche da latte sostanzialmente. Sì. E porto la testimonianza di quello che è avvenuto veramente in queste settimane, grandine, venti, il mais grandinato che ce ne sono centinaia di ettari. Riso che non cresce, perché non può crescere, perché il riso ha bisogno di almeno 35 gradi. Quindi altro che tutto il beneficio dell'acqua che è arrivata, pure il riso e il mais hanno avuto delle conseguenze negative, quindi proprio dato anche un'informazione completamente sbagliata poco fa. Assolutamente, i mais si sono fermati nella loro fase, stanno maturando adesso, stanno di fatto hanno già fecondato, in parte non ancora. Piuttosto che i risi che non riescono a spiegare perché sono fermi, sono gialli. Se lei passa dalla provincia di Milano, Lodi, Pavia, vedrà dei risi che sono giallini, non sono belli verdi, perché purtroppo non essendoci 30 gradi e soprattutto essendoci state quindi grandinate, temperature molto fredde, quindi tutta questa ripercussione si avrà. Gli allevatori, parlo per chi ha le vacche da latte, che già ha dei problemi a monte di prezzo del latte che non esiste, perché non si può dare 42 centesimi a un allevatore e vendere il latte fuori a 1,07 euro, cioè nel negozio. Sì, sì, infatti. Si sommano quindi raccolti che non avverranno in modo corretto, brutti, di scarsa qualità, quindi le sommo il problema prezzo del latte, perché è quello che lei conosce di più, certo. Conosco, ma che comunque si associa perfettamente. Paolo ci dà un quadro nerissimo. Cosa state facendo per cercare di non mandare del tutto perduta la stagione? Allora, si spera chiaramente che adesso possa venire un tempo discreto. Un briciolino di Dicono che settimana prossima possa stabilizzarsi, però gran parte dei raccolti sono anche persi. Gli allevatori fanno delle assicurazioni, si assicurano, pagano dei soldi per proteggersi dal raccolto, ma col fatto che esiste comunque una crisi che è conclamata da anni, molti non si sono neanche assicurati, perché comunque grava sul suo bilancio aziendale. Certo. Posso garantire che se voi poteste venire e vedere quello che succede in queste zone qui. Ma guardi, non abbiamo nessun dubbio relativamente al fatto che voi ci stiate raccontando la verità, altrimenti non è che tutti quanti gli agricoltori ieri si sarebbero appunto trasferiti a Roma. Esatto. Roma. No, tra l'altro, Drei, a prescindere dalla questione delle pesche nettarine e della richiesta all'Unione Europea di proclamare questo stato di emergenza, avete intenzione anche di sollevarne una italiana per questa situazione del maltempo? Ma guardi, credo che a livello nazionale sia oggettivamente abbastanza difficile sollevare richieste nei confronti del Ministero. Al Ministero stiamo chiedendo una maggiore attenzione, perché è indubbio che al di là della situazione contingente di oggi il nostro settore sia stato trascurato in questo Paese. Ci sentiamo molto trascurati da molti punti di vista, in modo particolare per tutto quello che concerne il tema della competitività delle nostre imprese. L'Italia, come primo paese produttore di ortofrutta, non può essere abbandonato a se stesso, lasciare il settore abbandonato a se stesso di fronte alla competizione di un paese come la Spagna, che oggi ha condizioni produttive enormemente più vantaggiose rispetto a quella dei nostri produttori. Perché se questo è, vuol dire che l'Italia si condanna, dopo aver perso rami importanti della propria industria, anche rami importanti della propria agricoltura, certo. E questo paese non se lo può permettere. No, allora guardi, intanto tra i tanti messaggi che stanno arrivando, che veramente qua è un peccato stamattina non riuscire a leggere tutto, a proposito ha sollevato ovviamente grandissima curiosità la questione delle pesche che dobbiamo buttare. Giorgio da Gorizia dice: ma l'industria conserviera non potrebbe dare una mano? Brava, ad utilizzare anch'io ho letto la stessa. Esatto, perché con Nicoletta adesso scherzavamo a microfoni spenti e dicevamo: diciamo a Drei se ce ne manda un po' che noi facciamo le marmellate, io non tanto, ma Nicoletta è capace. Adesso, a parte la provocazione che fa sorridere, ma l'industria conserviera non può darvi una mano? Ho già fatto tutto quello che potrebbe fare, Drei. Guarda, l'industria conserviera è esattamente nelle stesse condizioni del mercato fresco, nel senso che normalmente una quota dei nostri prodotti finisce la trasformazione industriale tutti gli anni, che è circa un 10%, potremmo dire, di quello che i produttori raccolgono, ed è rappresentato da quelli che sono i prodotti difettosi. Quindi succhi di frutta, marmellate, creme, tutto quello che è un derivato del prodotto ortofrutta. In questa situazione l'industria di trasformazione ha fatto i propri acquisti, ma ha esaurito la necessità dei propri acquisti, anche perché alcuni comparti del settore della trasformazione, in primis i succhi di frutta, sono anche essi soggetti a un calo di consumi decisamente pesante. E quindi il comparto è tutto nelle stesse condizioni. È proprio un po' tutto saturo, direi che se anche voleste passare al regalo, Drei, a questo punto non ci sarebbe più neanche addirittura l'opzione di poter come dire, regalare questo prodotto, perché non lo so, sì. Cioè è assurdo. Ci sarebbe un'opzione, quella di regalare il prodotto, ma sarebbe negativo perché le industrie di trasformazione farebbero delle giacenze e andremmo probabilmente a compromettere anche il mercato 2015-2016. Certo. Perché è evidente che se le nettarine destinate al mercato fresco tra 15 giorni sono terminate, marcite, finite, un prodotto trasformato e conservato dentro un tank va a essere trasferito sulle campagne successive perché è dotato di una lunga conservazione e quindi sarebbe un doppio danno. Ritorniamo al cane che si morde la coda di ieri. Leggiamo anche l'ascoltatore che dice: stringe il cuore sapere che si butta la frutta quando nel mondo si muore di fame. E andiamo ai nostri ascoltatori. Certo. Chi è? Abbiamo Maria che ci chiama dalla provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maria, benvenuta. Sì, grazie per l'attenzione. Io volevo semplicemente esprimere un'esperienza. In questo momento, per esempio, non ero d'accordo sul fatto della non gratuità del prodotto, perché sprechiamo tantissimo noi senza dover andare a cercare il terzo mondo, no? Ecco, quindi io ho cominciato a... attraverso un percorso personale ho trasformato il mio piccolo giardinetto in orto sinergico e contemporaneamente ho creato una piccola comunità su Facebook proprio per imparare in fretta e per condividere delle esperienze. Come sta andando? Sta andando che adesso sto mangiando le verze che non sono maturate quest'inverno, ecco. Le verdure cambiano stagione. Esatto, e comunque la grandine, la pioggia ha rovinato tantissimo perché con l'umidità arriva la peronospora e quindi i pomodori sono molto compromessi. E comunque io ritengo che sia una bella cosa riappropriarsi un po' del saper fare, dell'autoproduzione. È vero Maria, bisognerebbe farlo, non tutti possono, chi può si metta anche in contatto con Maria su Facebook. Certo, esatto. Che vada a guardare un po' come ha allestito questo suo giardino, lo ha riconvertito invece in produzione di ortofrutta. Drei, noi ci dobbiamo salutare perché lo spazio a nostra disposizione è terminato. Vuole girare un ultimo messaggio anche magari ai consumatori affinché vi aiutino un po' a creare una condizione di maggior sensibilità su tutto questo? Ma guardi, l'invito che faccio a tutti i consumatori è quello di consumare sempre frutta di stagione. Io dico sempre, il chilometro zero è uno slogan, ma va interpretato come un'educazione alimentare, non tanto come una strategia commerciale. Educazione alimentare che significa andare alla ricerca di prodotti di stagione, indipendentemente dal luogo dove noi siamo, sia che siamo in Valle d'Aosta o in Sicilia. Il frutto di stagione da un punto di vista salutistico e anche da un punto di vista di etica economica, credo che sia una scelta assolutamente corretta. Poi vorrei anche ricordare in ultimo che l'ortofrutta in questo paese è una grande ortofrutta che ha bisogno di servire i consumatori italiani e ha come obiettivo il servizio ai consumatori italiani, ma dobbiamo esportare il 50% della nostra produzione in tutto il mondo e qui c'è un grande valore aggiunto per questo paese. Benissimo, Drei, guardi, le promettiamo che torneremo su questo argomento. Adesso intanto vi lasciamo, ahimè, alla vostra emergenza e speriamo naturalmente che si risolva tutto al meglio al più presto. Grazie molte, buona giornata. Cuore e denari. I numeri non li sopporto più. La matematica che mi perseguita. Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, si parla solo con numeri. La gente. Allora, tre frutti e due contorni, Deborah, quattro contorni e un frutto, insomma, basta arrivare al fatidico 5 oppure ci sono delle regole da seguire? E a che cosa dare la preferenza? 800 24 00 24, in linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Maria Giovanna Luini, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Io non so, mi sa che forse non la presentiamo neanche più. Ah no? No, perché ormai è sempre qua. Sedersi qua tranquillamente con comunque, noi. Comunque... per chi si fosse sintonizzato solo ora con Cuore Denari, medico responsabile della comunicazione scientifica dell'OIEO, autore di numerosi libri tra cui Longevità, La dieta del digiuno, L'età della donna. Dottoressa Luini, per garantirci una sana longevità, a proposito del libro che porta questo titolo, occorre ripensare al modo in cui ci nutriamo. È necessario quindi basare, e lo ripetiamo sempre a Cuore Denari, l'alimentazione su una dieta adeguata varia, che moderi i grassi e non dimentichi mai frutta e verdura. Allora, le famose 5 porzioni di frutta e verdura, non servono più le 7 o le 8, bastano 5. Domandona delle domandone, che cosa si intende per porzione? Non sa quanti messaggi sono arrivati pazzesco. Al 349-238-6666 per chiederci ma che cosa intendete con porzione, quanto deve pesare, quanto deve essere grande, ma allora una porzione di insalata vale una porzione di melanzana alla griglia. Dottoressa, partiamo dal peso. Partiamo dal peso e quella è la parte più complicata, perché le domande che avete ricevuto sono assolutamente logiche e giuste, no? Noi abbiamo l'indicazione di consumare 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno e ovviamente queste 5 porzioni corrispondono ai 3 pasti principali più 2 spuntini, no? Questo è evidente. Il peso dipende, perché è chiaro che se noi valutiamo la nostra alimentazione con il peso delle portate, non ce la caviamo più, questo detto francamente. E oltretutto una porzione di insalata è vero che non può corrispondere in termini sia nutrizionali che di contributo, diciamo, al palato a una porzione, che ne so io, di carote piuttosto di melanzane o a una porzione di prugne, cioè non è la stessa cosa. Allora, di solito usiamo le mani, no? Sì. Immaginiamo una mano aperta, e allora quella mano aperta lì può essere una porzione di verdura, però attenzione, perché un adulto che pesa sugli 80 kg non può farsi bastare una mano aperta di verdura, allora moltiplica per 3 e quella è la porzione di un pasto, per esempio. Un bambino consumerà meno, no? Quindi una mano aperta di un bambino non è la mano aperta dell'adulto e via così. Quindi si usa un po' di ragionevolezza, nel senso che l'indicazione è di mangiare più vegetali che animali nella dieta ogni giorno. Questa è la cosa importante. Quindi tenere i vegetali 5 volte al giorno. Colazione, pranzo, cena più 2 spuntini. La porzione è, diciamo, una mano aperta moltiplicata per 2 o per 3, tenendo poi una quota proteica a parte che deve sempre controbilanciare i carboidrati. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Mario Bervellieri. Dottor Bervellieri, buongiorno, pediatra. Buongiorno. Dottor Bervellieri, lei ci aiuterà oggi dare ai nostri ascoltatori dei consigli, e soprattutto alle mamme e ai papà all'ascolto, per far sì che i loro bambini possano mangiare senza fare troppi capricci la frutta e la verdura. 5 porzioni di frutta e verdura anche per i bambini? Il bingo. In linea generale, certo, questo sarebbe l'ottimale, ma al di là del numero delle porzioni, la raccomandazione è proprio quella di cercare di spostare l'alimentazione quotidiana prevalentemente proprio su un'ampia varietà di cibi di origine vegetale, e questo fin dallo svezzamento, che anzi di solito viene effettuato proprio solo con cibi di origine vegetale. Infatti si dà la mela, no, dottor Bervellieri? La mela grattugiata. Il brodo di verdura, i legumi fin dall'inizio dello svezzamento, nella pappa. A proposito di brodo di verdura, dottor Bervellieri, io ci terrei che lei desse ai nostri ascoltatori la ricetta della sua pappa vegetale. Perché io leggendo la sua ricetta ho capito che alle mie figlie quando erano piccole, insomma, ho fatto mancare qualcosa. Fammi un po' sentire se posso dare qualche suggerimento. Così la commentiamo anche con la dottoressa Luini. Dottore. Bene. Allora, guardi, per quanto riguarda la pappa vegetale del bambino, ha gli stessi componenti di un pasto di un bambino più grande o di un adulto. I componenti fondamentali del pasto quali sono? La verdura, i cereali in forma integrale e come fonte di proteine soprattutto i legumi. Quindi verdura, cereali integrali e legumi li ritroveremo nella pappa del bambino. Con il bambino abbiamo però un problema, e cioè che non possiamo passare bruscamente da un'alimentazione priva di fibre come quella lattea, come quella del latte materno, a un'alimentazione improvvisamente troppo ricca di fibre. Le fibre sono importanti, ma vanno offerte al bambino con una grande prudenza e gradualità. Allora, come fare questo? Beh, questi tre componenti possono essere tranquillamente deprivati del quantitativo di fibre. Il brodo inizialmente viene proposto come un brodo vegetale preparato con le verdure di stagione, in cui queste verdure sono bollite ma semplicemente schiacciate e non passate, quindi in sostanza i primi brodi vegetali sono solo un semplice filtrato. I cereali, sarebbe ottimale poter utilizzare, poter fruire della completezza nutrizionale dei cereali integrali e del loro indice glicemico così basso, però i cereali hanno molte fibre, i cereali integrali hanno molte fibre e per di più fibre insolubili. E quindi? Come fare? Si può preparare tranquillamente una crema di cereali, iniziando dai cereali senza glutine in casa. Come fare? Da un punto di vista pratico, si prende una porzione per esempio di riso, citiamo il riso, partiamo con una porzione di riso semi-integrale, visto che dobbiamo togliere un eccesso di fibre, possiamo partire appunto da quello semi-integrale, lo mettiamo a cuocere con un quantitativo di 6-7 volte superiore di acqua e lo facciamo bollire e sobbollire pian pianino per 2-3 ore. Quando l'acqua è completamente assorbita o quasi completamente assorbita, naturalmente non possiamo permetterci di scolare un cereale integrale perché butteremo via con l'acqua tutto il tesoro di questi cereali. Lo possiamo aggiungere, bisogna avere tempo, ma io ho fretta perché devo dare la linea al GR, certo, e quindi si può aggiungere. E poi dopo si può passare questo cereale con un comune passino a fori piccoli, e via. La parte che esce sotto è il cereale, la crema integrale, e la parte che rimane sopra sono le fibre che vanno tolte. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi stiamo parlando della rivincita dei 5. Una revisione scientifica ha confermato che sono 5 le porzioni di frutta e verdura al giorno che regalano salute e anni di vita. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Luini e il dottor Berveglieri. Parliamo infatti di un consumo di frutta e verdura per gli adulti, ma vogliamo cercare anche di convincere i bambini a consumare frutta e verdura. A volte sembrano delle imprese impossibili come quelle che ci scrive. Ci è arrivata una mail. Oh sì, guarda, questa ascoltatore sì, proprio dice: vi sfido a fargliela andar giù, ho messo in pratica tutte le strategie possibili, ma vi sfido a convincere il nostro figlio di 3 anni ad assaggiare qualcosa di vegetale. Si fa persino venire il vomito solo alla vista, alla lontana. L'unica frutta che prende è quella dello yogurt e raramente un po' di mela. Le abbiamo provate tutte, ma non ne vuole sapere. Allora, intanto chiediamo al dottor Berveglieri di pensare magari una strategia per questo bambino così perché tra l'altro è diffuso, ma loro proprio hanno il gusto nei primi anni di vita che non li porta a voler assaggiare, oppure è un pregiudizio, oppure sono capricci o è l'esempio. Secondo voi 800 24 00 24, facciamoci aiutare anche dai nostri ascoltatori, ma facciamoci aiutare dalla dottoressa Luini a capire se e come possiamo orientare le nostre scelte. Sappiamo che il consumo di frutta e verdura ha un ruolo protettivo e preventivo nel confronto di alcune malattie, anche di molto aggressive. La ricerca ha sottolineato il ruolo preventivo del consumo di frutta e verdura anche nei confronti di alcuni tipi di tumore. Dottoressa Luini, ci racconta che cosa è venuto fuori da questi studi? Se ci sono dei tipi di frutta e di verdura più amici della nostra salute? Intanto la verdura è più amica rispetto alla frutta, se parliamo di prevenzione di alcune malattie, non lo dico in assoluto, ma nella prevenzione di alcune malattie cardiovascolari, per esempio, oppure il diabete, oppure anche alcune malattie tumorali, la verdura è più amica nostra rispetto alla frutta, cioè possiede maggiori qualità, maggiori benefici potenziali. Mi viene in mente, per esempio, la verdura a foglia verde, oppure la verdura verde proprio, di colore verde. Pensiamo ai piselli. I piselli che noi, quando vogliamo fare la dieta dimagrante, qualche volta allontaniamo, in realtà contengono un elemento che dà una forte prevenzione nei confronti del tumore al seno e del tumore della prostata. Lo stesso accade con i fagioli di soia che si possono tranquillamente inserire nella nostra alimentazione quotidiana, possono fare prevenzione nei confronti del tumore al seno e del tumore della prostata. In generale la verdura può contenere elementi che noi andiamo a cercare in modo sbagliato, peraltro, negli integratori. Pensiamo alla rucola, per esempio. La rucola è ricchissima di alcuni elementi che noi cerchiamo per combattere l'osteoporosi, insomma per fare mille cose buone per la nostra salute, e a volte li cerchiamo. Ce li abbiamo lì? Invece ce l'abbiamo lì. E c'è anche il crescione. Il crescione, per esempio, ma infatti gli esempi sono tanti e vanno conosciuti. Le verdure a foglia sono ricchissime di alimenti minerali e sono alimenti minerali che contengono in grande quantità, ma non dimentichiamo la frutta, nel senso che la frutta è vero che magari fa un po' meno prevenzione, però contiene, per esempio, se è frutta secca, gli omega 3, oppure contiene degli zuccheri buoni, perché è vero che si parla di zucchero per la frutta, ma è uno zucchero buono. Non anche è uno zucchero. I semioleosi, così i ricchi di proprietà nutritive, possono essere considerate porzione, dottoressa Luini, rientrare nelle 5? Beh sì, fanno parte. Comunque chiaro che se li mangiamo tutti i giorni ci facciamo un regalo, perché sia i semi oleosi che quella che chiamiamo frutta secca in generale andrebbero consumati tutti i giorni. Le faccio l'esempio della prevenzione dell'Alzheimer. Esiste uno studio gigantesco, veramente su decine di migliaia di persone, che dice che la noce mangiata tutti i giorni fa una prevenzione addirittura della demenza senile e dell'Alzheimer. Quindi insomma stiamo parlando di cose importanti, di prevenzioni importanti. E ditemi una cosa importante all'800240024. Pensate alla vostra dieta settimanale. Quali sono gli alimenti che tornano più spesso sulla vostra tavola? Riuscite a consumare le 5 porzioni di frutta e verdura? Avete dei gusti? Variate anche i tipi di frutta, i tipi di verdura, i colori. 800240024. Abbiamo Laura da Padova e Rossana dalla provincia di Milano, e poi leggeremo anche i messaggi. Abbiamo tanti. Paginate di SMS oggi è stato oggi. Qualcosa di incredibile, veramente. Evidentemente le verdure e la frutta hanno stimolato e l'SMS. Allora direi di sentire Laura, perché in realtà è in attesa da un po', ci voleva raccontare la sua esperienza di sua figlia per quello che riguarda appunto l'allestimento di un piccolo orto. Laura, ma noi l'abbiamo mantenuta in linea con noi perché, avendo una bambina di 5 anni, in realtà volevamo capire se ce la fa a farle mangiare frutta e verdura. Eccomi, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, devo dire che mia figlia va piuttosto controcorrente rispetto a quello che è il trend dei bambini, perché è ghiotta di frutta e di verdura, quindi non abbiamo problemi da quel punto di vista. Ottimo. E poi anch'io ho fatto un piccolo orto nel giardino, si parla di neanche 10 piante, insomma, tra pomodori e zucchine. È stato più una cosa divertente che non di sopravvivenza, devo dire la verità. Però questo incentiva ulteriormente il consumo, perché alla sera andare a raccogliere il pomodoro e poi ha tutto un altro sapore. Sì, sì, addirittura anche quando viene l'amichetta di mia figlia così a casa, vanno nell'orto e vanno a mangiare. Si conservano di più anche in frigorifero. Guarda, no? Io mi ricordo delle merende dalla mia nonna in campagna con pane e pomodoro. Anch'io. Alle 5 era un po' bello tiepidino, si raccoglieva, c'era il pane. Che tempi! Grazie, grazie a Laura da Padova che è intervenuta al nostro numero verde. Dottoressa Luini, pomodoro, mi viene in mente subito il licopene. Il licopene, sì, la vitamina C che è nel pomodoro, e nel pomodoro però freddo, cioè a temperatura ambiente, il licopene che invece si attiva quando si scalda il pomodoro e gli si mette un po' di grasso, cioè olio d'oliva, no? La tipica La pomarola. La pomarola, quindi ecco. O il sugo, la bruschetta, pomodoro caldo e olio d'oliva attivano il licopene, che è un potente antitumorale. Dottor Bervellieri, cotta e cruda, le domande arrivano naturalmente dai nostri ascoltatori, ma c'è anche curiosità da parte mia e di Deborah. Ci sono delle verdure che noi consumiamo, possiamo consumare sia cotte che crude, ad esempio la carota, ma la cottura cambia un po' le loro proprietà nutrizionali. C'è anche il lesso, diciamo, la lessa. Riusciamo ad assumere alcuni nutrienti proprio cuocendo alcune verdure e non magari mangiandole crude e viceversa. Ci fa un rapidissimo specchietto con alcune curiosità? Sappiamo che la cottura naturalmente ha degli effetti non favorevoli su un piccolo numero di vitamine dette termolabili, che sono la B1, la C e la B2, e quindi diciamo che c'è una piccola perdita di queste vitamine, che peraltro può essere attenuata quando la cottura è effettuata non per immersione ma per esempio a vapore. Così anche quindi la prima regola è meglio cuocerle al vapore. Se cottura delle verdure è opportuno sia a vapore per avere una minor perdita sia di sali che delle vitamine termolabili. Ma ci sono Cottura dà anche dei vantaggi in diversi tipi di verdure. Per esempio, uno l'abbiamo già citato per quanto riguarda il pomodoro, le carote, nelle carote il beta carotene, che è ben presente e che sopporta tutto sommato abbastanza bene la cottura, diventa più biodisponibile perché le pareti cellulari delle carote vegetali in cui è contenuto con la cottura si ammorbidiscono. Quindi, dottor Bervellieri, e questo lo chiedo anche alla dottoressa Luini, chi vuole preparare la pelle alla bronzatura si sente sempre consumate prodotti ricchi di beta carotene, invece che mangiarsi le carote crude meglio se le mangi cotte, dottoressa Luini? Sì, per certi versi sì, attenzione un po' al carico glicemico della carota cotta, ma sono anche buone le carote cotte, quindi sì. Non hanno tanto appeal, ma insomma va bene. Una volta ogni tanto. Dottor Bervellieri, dopo la carota, quale altra? Altri esempi possono essere quelli del gruppo dei cavoli, diciamo, di cui fa parte anche la rucola citata in precedenza. E per quanto riguarda i cavoli, una delle sostanze più attive anche nella prevenzione dei tumori che è denominata glucosinolati viene proprio resa più biodisponibile, più attiva proprio dalla cottura, e contestualmente con la cottura si riducono delle sostanze che possono antagonizzare gli ormoni tiroidei, e quindi diciamo c'è questo doppio beneficio. Altri esempi possono riguardare per esempio le verdure a foglia larga, che di fatti si consumano sempre cotte. Queste verdure, le biete, la cicoria, gli spinaci e anche le rape, che sono molto ricche di ferro ma soprattutto di calcio, contengono una sostanza, gli ossalati, che legano il calcio e che quindi ne impediscono l'assorbimento. Tuttavia con la cottura gli ossalati passano in gran parte nell'acqua di cottura, che quindi deve essere eliminata, e il calcio risulta più disponibile. Altri esempi possono riguardare la stessa solanina, che peraltro riguarda soprattutto alcuni tipi di verdure come le patate, i peperoni, le melanzane, esatto, e che si trova soprattutto nei prodotti non ben maturi. In ogni caso una cottura adeguata è in grado di inattivarne i residui, ecco. Quindi in sostanza è una buona norma inserire anche una certa quantità di verdure cotte nella nostra dieta, insomma. Dottoressa Luini, un po' cotte e un po' crude, insomma, come si dice? Un po' crude e con un po' di aglio e cipolla, perché non dimentichiamoci, per la prevenzione, l'aglio, che è potentissimo, previene un sacco di guai e di malattie anche tumorali, e la cipolla, che quando è scaldata ha questo effetto di aumento dell'efficacia, quindi prevenzione anche con l'aglio e la cipolla. E la cipolla faceva parte anche degli ingredienti della merenda della nonna di un nostro ascoltatore, che ci ha scritto, un po' stimolato dalla merenda mia e di Deborah con il pane e i pomodori, ci ha raccontato la merenda della nonna. Se avete voglia di farlo anche voi, al 349-238-6666, la merenda della nonna, panino con tonno, cipolline e peperoncini verdi piccantini. Dottoressa Luini, il famoso peperoncino, su cui si sono scritte fiume di parole per esaltarne i pregi. Sì, beh, i fiumi di parole di solito si scrivono perché il peperoncino vasodilata, quindi apre un po' le piccole arterie, fa fluire meglio il sangue là dove deve, e quindi ha anche un bel risultato in termini di relazioni sentimentali, mettiamola così, perché siamo in fascia molto protetta. Però è anche vero che dilatare le piccole arterie fa bene al cuore, no? Quindi aprire le piccole arterie fa bene proprio al muscolo cardiaco. Ecco, aprire il cuore, aprire il cuore, quindi fa bene al cuore, mettiamola così, rimaniamo in fascia protetta. Esatto. 800 24 00 24, dove andiamo? Allora, direi a questo punto di andare in provincia di Milano, perché anche in questo caso abbiamo tante ascoltatrici molto sensibili all'argomento. Quest'oggi Rossana, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho chiamato perché non sono vegana, mangio vegano, che è una cosa diversa, cioè ho adottato questa politica perché ho visto che dal punto di vista salutistico mi fa molto bene. Quindi ho un orto, faccio parte di un gruppo d'acquisto solidale, ottimo, mangio biologico, nel giardino condominiale ho inserito piccoli frutti, piccole verdure, per cui quando posso, prima di andare al lavoro la mattina, prima di prendere la bicicletta, prendo i miei piccoli frutti e me ne vado a lavorare, e quella è la mia seconda colazione. Utilizzo le 5 porzioni, per cui insomma virtuosissima. Certo. Beh, mi ha fatto molto bene. Sono 6-7 anni che non ho più un raffreddore, non ho più un'influenza, non ho niente, anzi, tra l'altro la cervicale mi è quasi sparita, i dolori di schiena non ci sono quasi più, e inizio i pasti sempre con una crudité. Inizia i pasti sempre con una crudité, un consiglio che viene dato anche dal dottor Speciani, che è spesso ospite di Cuore e Denari. Dottor Berveglieri, Rosanna ha scelto di un'alimentazione vegana. L'alimentazione vegana è certamente associata, è riconosciuta come un'alimentazione salutare dal punto di vista proprio ufficiale, e non solo, è riconosciuta come un'alimentazione che conferisce dei benefici per la salute nella prevenzione di determinate patologie, e quindi è una scelta molto positiva dal punto di vista salutistico. Nel passaggio da una dieta mediterranea, una dieta equilibrata, una dieta onnivora, a una dieta vegana, però bisogna farsi accompagnare, dottor Berveglieri. Il passaggio dalla dieta mediterranea propriamente detta, cioè quella che è stata veramente descritta da chi l'ha descritta la prima volta, cioè da Kiss, a una dieta vegana, è un passaggio molto, molto semplice, molto facile, perché anche la vera dieta mediterranea, che non è quella che facciamo noi in Italia e in Europa, ma la vera dieta mediterranea era basata sull'uso di che cosa? Delle verdure, della frutta, dei cereali integrali, perché allora c'erano solo mulini e pietra, e dei legumi come fonte unica di proteine. Adesso ci stiamo allontanando, dottore, purtroppo, però adesso noi ci stiamo allontanando molto da questo modello. Volevo che lei desse un'indicazione alle persone che per scelta, per, come ha fatto Rosanna, proprio perché sentono gli effetti, i benefici di un cambio di dieta, decidono di avvicinarsi. Di solito il passaggio è prima alla dieta vegetariana, e molte persone che seguono la dieta vegetariana passano poi alla vegana. È un passaggio che va fatto gradualmente, accompagnato, o basta? Beh, naturalmente è opportuno un consiglio da esperti, oppure comunque è opportuno approfondire bene l'argomento per non andare incontro a delle carenze nutrizionali. La cosa migliore inizialmente non è tanto quella di eliminare dei gruppi di alimenti o degli alimenti, ma è quella di aggiungere, di variare, e la ricchezza delle preparazioni vegetali ci dà proprio questa possibilità, senza bisogno di eliminare i piatti a base di carne, a base di pesce, eccetera. Si possono alternare con piatti a base di legumi o di derivati dei legumi o comunque di prodotti vegetali di cui abbiamo una varietà enorme e che possono servire a rendere molto più ricca la dieta, così come per quanto riguarda i cereali possiamo allargare la nostra scelta, non solo la classica pasta di frumento, raffinata di frumento, ma possiamo utilizzare anche i semi dei cereali, e anche qui abbiamo tanti semi integrali e integrali a cui fare riferimento. Quindi il primo passo è proprio quello di non togliere arricchire. No, questo no, mi piace. Arricchiamo la nostra dieta anche con le erbe aromatiche, dottoressa Luini, così rispondiamo a un SMS di un nostro ascoltatore. Sì, assolutamente, ma anche perché le erbe aromatiche ci aiutano a fare una cosa importantissima, cioè a ridurre il sale. Gli alimenti contengono già il sale in modo del tutto naturale e va bene. Usare le erbe aromatiche dà un guadagno in termini sicuramente di salute, ma anche ci aiuta a mantenere un buon sapore del cibo riducendo il sale aggiunto. Quindi sono ottime. Allora, a parte i tantissimi messaggi che qua veramente stamattina ci stanno travolgendo, volevo fare una domanda, poi a piacere chi mi vuole rispondere, forse non è il caso tanto il pediatra, perché non sono più, Nicoletta, in età pediatrica. Appena uscita. No, la questione è questa, la verdura, cioè la porzione di frutta o verdura a colazione mi stimola molto, perché non siamo proprio molto portati come italiani ad inserire nel primo pasto della giornata un alimento vegetale, no, di questo tipo, quindi molto spesso sostituiamo con il succo di frutta, che chiaramente è ricco di zucchero. Meglio e non va bene, però insomma, una spremuta. Esatto, però diciamo che a me proprio non va giù. Io sono una da caldo, da caffè latte di soia, che è quello al quale mi sono convertita ormai da molto tempo. Ma dottoressa Luini, come possiamo fare per comunque mettere questa porzione vegetale il mattino? Il mattino, se non abbiamo l'abitudine di mangiare la porzione di frutta, cioè un frutto sostanzialmente, oppure una manciata di frutti di bosco, e non abbiamo voglia di farci un frullato, un centrifugato, possiamo tentare mischiamo poca frutta con i cereali, prendiamo dei cereali non zuccherati e approfittiamo di questo loro gusto per metterci dentro anche la frutta, le fettine di banana per esempio, che sono ricche di potassio, di solito sono abbastanza gradite perché tutto sommato non assomigliano proprio alla frutta, no? E quindi possiamo mischiare la frutta a qualcos'altro. O se no la si mangia allo spuntino di metà giornata, di metà mattina. Quello è ideale. Magari cambia. Perché, ore dopo. Dottoressa Luini, ma sì, una spremuta vale una porzione? Una bella spremuta di arancia, per esempio, vale una porzione. Sì, è chiaro che se la mangiamo separata dal resto, quindi allo spuntino di metà mattina o allo spuntino del pomeriggio, magari aggiungendo 4-5 nocciole, noi abbiamo tutto il beneficio della frutta senza andare a accumulare la frutta con altri alimenti, quindi avendo magari il rischio di un po' di acidità. Cioè, se mangiamo la frutta da sola va benissimo. Quindi lei sconsiglia della teoria della frutta lontana dai pasti? No, io guardi, intanto secondo me ogni persona ha un suo equilibrio e raramente io lo vado a disturbare, quindi io sto sempre molto attenta e chiedo prima quali siano le abitudini alimentari della persona, perché lì c'è sempre il segreto dell'equilibrio della persona, quindi questa è la premessa. Poi ci sono persone invece che hanno bisogno di separare la frutta dagli altri pasti, perché altrimenti hanno poi il bruciore di stomaco, oppure hanno dei picchi glicemici, no? O il gonfiore della pancia, esatto. Quindi no, io non sono affatto contraria a separare la frutta dal resto, diciamo che sentire un po' il proprio corpo. Sì, ecco, esatto, lasciamo perfetto. Parlare il corpo, esatto, che è il nostro maestro. Esatto, andiamo esatto. a Venezia. Andiamo a Venezia, credo che sarà l'ultima telefonata di oggi, Giulia, e sarà naturalmente rapidissima la nostra ascoltatrice, la nostra amica, l'800240024. Eccoci a lei. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono vegana e tutte queste belle cose che avete detto fino adesso le faccio. Un bimbo di 8 anni che finché era piccolo mangiava la frutta, la verdura, eccetera. Andato all'asilo e poi ha iniziato le scuole e niente, si è rifiutato di mangiare qualsiasi tipo di frutta. Assolutamente gli fa schifo tutto. Ha cambiato gusti, forse. No, ha cambiato gusti. Male. Ho idea che per emulazione. Sì, il condizionamento forse degli altri bambini. È probabile, però questo l'ha condizionato anche nella scelta del cibo, nel senso che ha abbandonato l'essere, diciamo, lui vegetariano e perciò. Si chiede Vedi? Carne, pollo e io lo accontento per carità. Certo. Grazie allora Giulia. Ai nostri esperti per essere stati con noi, dottoressa Luini, dottor Bervegliari, grazie a voi che siete intervenuti, ci avete scritto, fatto tanti complimenti e questo ci fa piacere. Benissimo. Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica. Laura Vanossi che ci assiste per tutta la durata della preparazione del nostro programma e non solo. E noi ci sentiamo come sempre domani alle 11, qui vi aspettiamo. Cuore e denari.